Sim. Onestamente a questa gente io non devo un bel niente. It's ok, tra i fatti miei, coi miei quasi sempre. Fumo meno perché in tasca ho solo un po' di monete. Faccio incastri coi miei cugini from Montelet. Ho le chiavi di papà, vado in giro in freelander. Con il braccio mezzo fuori sviso 100 lenne. Poi la giro e sviso un gruppo che è così già a pelle. Sembra un mazzo di frocioni tipo 100 celle. Non vi sento gente, cara list night. Taglio il fiato a questi scousi con le Marlboro Lights. Non vi sento gente, Cagliari stasera, straccia jolly con le mani come una bandiera. Quando tutto si fa nero come me carrera, vedi soci dalla piazza come pila gallonera. Trovi quello che non c'era, fumo bamba o ganja. Cerchi quello che non c'è, se sei un amico dei caramba. Cugino mi credi che così è ok, stare con i miei perché per me è ok. Fumarmi la vita sarà sempre ok, ed è ok, pure se per te non lo è. Cugino mi credi che così è ok, stare con i miei perché per me è ok. Fumarmi la vita sarà sempre ok, ed è ok, pure se per te non lo è. Desaparecidos, oh che cazzo dico. Mi sono trasformato e mo sto cannabis attivo. Mi sono trasferito con l'amica di un amico. L'ha ciupato, senti il dito, prende cazzi per ciupito. Non mi ammacchi col tuo video, 2 ore che fai il figo. Parli a bambera di un disco che non credo sia mai uscito. Sei carino ma Gucci non sei il mio tipo. L'hai capito, io sto un cazzo quanto all'uomo con il distintivo. Ciò che scrivo non è sempre ciò che vivo, ma tu ci credi lo stesso ed è per ciò che te lo dico. Gucci, io me la rido, Gucci. Io non ti invidio perché scopri la metà di quante io realmente chiavo. Sono scandalo italiano, real motherfucking G's. Ho fatto un sogno e stavo al tavolo con Pac e Dizzy E. Siamo già al 2009, ho già 2000 prove che stavolta non ci piove. Io mi prendo la nazione. Gucci, non mi credi che così è ok, stare con i miei perché per me è ok. Fumarmi la vita sarà sempre ok, ed è ok, pure se per te non lo è. Gucci, non mi credi che così è ok, stare con i miei perché per me è ok. Fumarmi la vita sarà sempre ok, ed è ok, pure se per te non lo è. Midley, tra il film di Scarface e John Wayne, un DJ che sembra Marley travestito da gay. Sono un cowboy che spaccia coca per un pugno di pound. Non sono né bello né brutto né cattivo, io sono wow. Se tu ascolti West Coast spari un mazzo di balle. Se ti penso un big boss giochi a guerra di bande. Oppure ascolti East Coast, pensi di essere il under ma ti hanno buttato giù come le Tin Tower, come Rabi. Vengo dall'isola che non c'è, dove sequestri hanno fatto storia tra pastori e pecore. Io cerco te, tu cerchi me, io voglio cash, tu che vuoi fare? Un giorno che lo stato c'è ma sta su crisi finanziarie e brutte arie. Però finché tu ancora ci sei, io mi sentirò ok, molto più di The Game. Poche storie, perché stavolta vincerò. E se vuoi potrei chiamarmi ancora T-E-S-O. Cugi non mi credi che così è ok, stare con i miei perché per me è ok. Fumarmi la vita sarà sempre ok, ed è ok, pure se per te non lo è. Cugi non mi credi che così è ok, stare con i miei perché per me è ok. Fumarmi la vita sarà sempre ok, ed è ok, pure se per te non lo è. Okay.